Benvenuti a IAM, magazzino esistenziale. Ma si può dire anche IAM? Sì, certo. Qui troverete risposte ai vostri dubbi. Dubbi per mettere in crisi le vostre certezze. Certezze con dentro residui di dubbio. Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, sesamo e soia. E luce. Soprattutto luce. Luce per le vostre notti buie. Ma che cos'è questa vita? Che cos'è? Lo chiedi a me, mentre io lo chiedo a te. Ma che cos'è la bellezza? Che cos'è? Non so perché, questa sera so cos'è. Yeah! Buonasera, sono Valerio Grut. Bentornati o benvenuti a chi ci entra per la prima volta nel nostro magazzino esistenziale. Un luogo per gli inquieti, per quelli che cercano sempre. Una piccola setta filosofica, un negozio dove non si vende niente. Siamo qui perché attraverso la poesia, la musica, gli incontri, vogliamo toccare un poco di più l'essenza del mondo e di noi. Esercitarci ad essere presenti attraverso le parole, a scoprirne la leggerezza e il peso, a non farci scappare la vita. Perché credo che una grande questione di oggi sia accorgerci della vita mentre si vive, non farci portare sempre fuori, ma volgersi ogni tanto dentro, perché se impariamo ad ascoltarci, comprendiamo anche di più l'universo. Per questo ci facciamo domande grandi, per fermarci un attimo a contemplare, e in questo viaggio ci faremo aiutare dai saggi e dall'arte. L'ospite di questa sera lo scopriamo tra poco. Oh, Che cos'è la vita? Questa è la domanda che facciamo ai nostri ospiti, chiedendo di risponderci con qualche minuto di messaggio vocale. La risposta che ascoltiamo oggi è quella di Marco Guzzi. Poeta e filosofo, ha degli importanti trascorsi radiofonici perché ha condotto diverse trasmissioni di dialogo con il pubblico di Radio Rai. Insegna all'Istituto di Teologia dell'Università Lateranense alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana. Ha pubblicato numerosi libri, dirige la collana Crocevia per le edizioni paoline e nel 1999 ha fondato i gruppi Darsi Pace, un interessantissimo movimento di liberazione interiore. Ascoltiamo il suo commento. La vita per noi esseri umani è sempre un'esperienza della coscienza. Cioè noi non facciamo esperienza di una vita bruta, di una vita naturale primaria. Per noi umani la vita è sempre, potremmo dire, la coscienza di vivere e quindi sempre un elaborato del pensiero. La vita per gli umani è un elaborato del pensiero. Questo è molto importante da comprendere e oggi viene spesso dimenticato. Quindi la vita non è una datità. Potremmo dire l'uomo non vive mai una vita naturale, nel senso di una natura inconsapevole. Per l'uomo la vita è sempre un'esperienza consapevole e quindi si potrebbe dire un'esperienza dello spirito. È lo spirito, cioè l'autocoscienza umana che parla della vita. Anche il concetto di vita è in realtà un concetto, appunto, non è una datità. La vita è un concetto elaborato dall'essere umano che intende la vita e si chiede cos'è la vita, ma non è che la vita in se stessa si interroga su se stessa, è lo spirito umano che si interroga sull'essenza della vita. Anzi, potremmo arrivare a dire una cosa ancora più radicale: l'essere umano è quell'essere che si interroga sulla propria vita. E quindi la vita diventa un problema. La vita è un problema per l'essere umano, per lo spirito, cioè per l'autocoscienza, la vita è un problema. Questo è da capire e questo spiega anche perché l'esperienza della vita umana sia sempre storica, cioè cambia. Cioè l'esperienza della vita che poteva fare un uomo nel Paleolitico è certamente diversa dall'esperienza della vita, esperienza e quindi anche concetto della vita, che possiamo avere noi. Capite? Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che l'essere umano vive la propria vita sempre in modo creativo. Quindi la vita è un'esperienza della coscienza, la vita umana è sempre storica, quindi cambia, e quindi la vita per l'essere umano è dinamica. Potremmo dire la vita cambia la vita. La vita per l'essere umano è un cambiamento costante dell'esperienza della vita. Ogni volta che l'essere umano si reclude in un concetto statico della vita, cioè pretende di dare una definizione, per esempio, finale, definire, no? Il concetto di vita, in realtà cosa fa? Blocca la vita, perché la vita per l'essere umano è appunto spirito, creazione, storia e quindi va lasciata fluida. Capite? Questo ragionamento, se viene, come dire, approfondito, ci porta ad un'altra esperienza fondamentale dell'uomo, che è la libertà. Quindi la vita vera, quindi la vita veramente umana, una vita umana vissuta in modo veramente umano e quindi creativo e quindi storico, è libertà. Cioè io come spirito voglio vivere la mia vita non come qualche cosa che sia del tutto determinato, condizionato e bloccato, ma voglio vivere la mia vita appunto come un atto creativo libero. Ecco il bello. Quindi la vita umana è spirito, è coscienza, è creatività ed è libertà. Quando questi elementi vengono ridotti, come per esempio in questo tempo storico, no? In cui la società va sempre di più verso il controllo, verso l'eliminazione addirittura dell'essenza libera dell'uomo, ridotto a big data, ridotto quindi a schemi algoritmici controllabili, pilotabili, vendibili sui mercati del mondo. Ecco, quando questo accade, come sta accadendo, l'essere umano vive una vita triste, sempre più triste, il tempo delle passioni tristi. Ecco, noi dobbiamo invece ridare alla vita la sua vita, e cioè la sua creatività, la sua libertà, la sua bellezza, improvvisa, inattendibile, inattesa e sempre sorprendente. Ringrazio davvero di cuore Marco Guzzi per il fuoco delle sue parole e per la lucidità con il quale ce le porta. Qui con me anche stasera ci sono i valorosi commessi del magazzino esistenziale. Buonasera Eleonora. Ciao a tutti. Ludovica. Ciao a chi ci ascolta. E ciao Matteo lì lontano questa sera in regia. Ciao a tutti. Allora, come procede questa seconda apertura del magazzino? Stasera, stanotte, forse avremo un sacco di spunti di riflessione. No? Sì. Un altro arrivo, un altro carico importante, anche abbastanza diverso rispetto al primo, quindi direi che possiamo iniziare a fare, non lo so, degli scaffali, un po'... Esatto, esatto, ad organizzare un po' esatto. Il magazzino, beh, è giusto. E allora, a proposito, Ludovica, che come la scorsa volta avete anche sentito, nella nostra sigla Ludovica Pasca, anche questa sera ci fa ascoltare un brano live. Che cosa hai preparato per questa sera? Ho preparato per voi un brano di una giovanissima cantautrice spagnola, di cui sono molto innamorata, devo dire, che si chiama La Unoa, e il brano è Siete Lágrimas, Sette Lacrime. Si te vas mañana bajo el calor de este sol tibio, lloraré seis lágrimas de amor. El amor es como un árbol y florece con agua bendita, pero el fruto llega y cae la flor, y al final el fruto se marchita. Si este sol tibio, seis de amor por derramar y una de alivio, siete lágrimas de adiós bajo este sol tibio. Seis de amor por derramar y una de puro y una de puro y una de puro. Le parole di Marco Guzzi mi hanno fatto pensare ai versi di Rainer Maria Rilke. Quando Guzzi ha detto «L'uomo non vive mai una vita naturale», nella mia testa si è manifestata l'ottava delle Elegie Duinesi, un capolavoro eccezionale, e quindi ho pensato di farvela ascoltare, letta da Domenico Pelini. La creatura, qual siano gli occhi suoi, vede l'aperto. Soltanto gli occhi nostri son come rigirati, posti tutti intorno ad essa, trappole ad accerchiare la sua libera uscita. Quello che c'è di fuori lo sappiamo soltanto dal viso animale, perché noi un tenero bambino già lo si volge, lo si costringe a riguardare indietro e vedere figurazioni soltanto, e non l'aperto che è sì profondo nel volto delle bestie. Libero da morte, questa la vediamo noi soli. Il libero animale ha sempre il suo tramonto dietro a sé e dinanzi a Dio. E quando va, va in eterno come vanno le fonti. Noi non abbiamo mai dinanzi a noi, neanche per un giorno, lo spazio puro dove sbocciano i fiori a non finire, sempre c'è mondo, e mai quel nessun dove senza negazioni, puro, non sorvegliato, che si respira, si sa infinito e non si brama. Uno, da bimbo ci si perde in silenzio e ne è scosso, o un altro muore e lo diventa, perché quando è vicina la morte non si vede e guardiamo fissi fuori, forse col grande sguardo degli animali. Gli amanti, se non ci fosse l'altro che preclude la vista, a quello spazio puro son vicini e stupiscono come per svista è stato aperto loro dietro l'altro. Ma oltre l'altro nessuno può andare, ed ecco a tutti e due tornare mondo. Sempre rivolti al creato, in essi vediamo soltanto il rispecchio del libero da noi stesso oscurato. O che una bestia muta alzi gli occhi e guardi tranquilla attraverso di noi. Ecco quel che si chiama destino. Essere di rimpetto e null'altro è sempre di rimpetto. Se ci fosse coscienza della nostra specie, nel sicuro animale che pur per altra via ci viene incontro, lui ci rigirerebbe col suo andare. Ma per lui l'essere suo è infinito, è sciolto e senza sguardo sul suo proprio stato, puro come il suo sguardo sull'aperto. E dove noi vediamo futuro, lui vede invece il tutto, e in quel tutto se stesso è salvo sempre. Eppure nel vigile, caldo animale, c'è il peso e l'ansia di una gran tristezza, perché anche adesso sempre aderisce quel che spesso schiaccia noi, la rimembranza. Come se già una volta ciò verso cui tendiamo fosse stato più vicino, più fido, e quell'accosto tanto, tanto tenero. Qui tutto è distanza, e là era respiro. Dopo la prima patria, questa seconda gli è ibrida e ventosa. O beatitudine della creatura piccola, che resta sempre nel grembo che la portò, o felicità del moscerino che saltella ancora dentro, persin quando va a nozze, perché grembo è tutto. E guarda la mezza sicurezza dell'uccello, che per via della sua origine sa pressappoco tutte e due le cose, come fosse un'anima di etruschi, uscita fuori da un morto, che chiuso in uno spazio, aveva però la sua figura in riposo per coperchio. E come è sgomento uno che ha da volare e viene da un grembo, come è terrorizzato di se stesso, passa per l'aria indeciso, va come va un'incrinatura lungo un vaso. Così la traccia del pipistrello fende la porcellana della sera. E noi, spettatori sempre, in ogni dove, sempre rivolti a tutto e mai all'aperto, riempircene a spagliare. Lo ordiniamo e frana, lo riordiniamo e franiamo anche noi. Ma chi ci ha rigirati così, che qualsia quel che facciamo è sempre come fossimo nell'atto di partire? Come è colui che sull'ultimo colle che gli prospetta per una volta ancora tutta la sua valle, si volta, si ferma, indugia. Così viviamo, per dir sempre addio. Siamo arrivati alla conclusione del nostro secondo appuntamento. Vi ricordiamo che siamo in onda su Radio Ex Alge ogni ultimo giovedì del mese alle ore 21, per continuare la nostra esplorazione dell'invisibile, per porci domande grandi, per allenarci al sentire. Io ringrazio Eleonora Negrisoli, Ludovica Pasca e Matteo Polonara. Grazie a voi che ci avete seguito. Alla prossima.